Il diario della principessa, Eugenia von der Leyen. I miei colloqui con le povere anime. Sai quando morirà? 20 ottobre. La scimmia fu qui quasi tutta la notte. Il suo viso incomincia a diventare un po' più umano, ma non meno ripugnante. Ho pregato molto con lei. Essa desidera tanto l'acqua santa. La ho vista anche nel prato e in giardino. Ho visto di nuovo le tre donne in chiesa, ma indossano il vecchio costume dei contadini. 24 ottobre. Venne il caro domenicano. Io, mi puoi dire, perché alcuni di voi alle volte mi tormentano proprio? Lui, sono quelli del gradino più basso. Il peccato è ancora attaccato ad essi. Sono salvi, ma non purificati. Io, tu non sei mai stato in questo gradino? Per grazia di Dio, no. Io, quando sei morto. Io non seppi nulla. Lui, 4 mesi fa. Io, dimmi perché l'anima si è sciolta dal corpo, come faccio a vedere i vostri corpi? Lui, per permissione di Dio. Altrimenti come potresti vederci? Io, ma come avviene che io senta a occhi chiusi, quando voi siete vicini? Lui, noi siamo legati a te. Io, vi urta se io, nonostante la mia compassione sono ancora allegra con voi? No, perché così tu attingi forza. 24, 25. 26 ottobre. Notti assai dure con la scimmia, quasi nessun riposo. Mi pare che abbia ancora tanto bisogno, non c'è alcun cambiamento. Capisco anche perché la mia preghiera sia davvero assai povera. Il domenicano tu qui molto poco. Io, mi vedi triste, io quasi non ne posso più. Lui. Ti sei pur voluta offrire no. Io, sì certo, ma la mia volontà è molto debole. Lui, quanto più tu sei piccola, tanto più grande è uno apostrofo aiuto. Poi lui disse ancora qualche cosa di incomprensibile e disparve. 28 ottobre. Niente di nuovo, la scimmia mi continua a tormentare come prima. 30. 31 ottobre. 1 novembre. Niente di speciale. Commovente da parte loro, poiché io ero fisicamente a terra. 2 novembre. Commemorazione dei fedeli defunti, venne il domenicano. Io, oggi avete una bella giornata. Lui, il sangue di Cristo scorre a torrenti. Io, intendi dire l'elettante sante lui, sì, questo sangue ci conduce alla vita. Io, anche tu ancora oggi? Lui, ora va bene per me. Io, non tornerai più molto spesso da me? Lui, no. Io, mi puoi dire ciò che più può rendere più perfetta la mia anima? Lui, quello che ti ho detto quando ero vivo. I santi sacramenti. Ogni giorno devi farti più pura. Io, ci manca assai. Prega per me. Sai quando morirò? Lui, 3x9. Io, non posso capire questo. Lui, non devi neanche capirlo. Nota. Eugenia von der Leyen morì il 9 gennaio 1929 alle 4 del mattino. In questa data ricorre 3 volte il 9. Poi venne la scimmia e il mio buon amico se n'era andato. Ho recitato davanti a lei il Distrae, allora mi venne vicinissimo e mi guardò in una maniera così supplichevole da spaccare il cuore. Io mi sentii spinta ad accarezzarlo. Era untuoso al tatto. Io, ancora non puoi parlare? Solo un singhiozzare e poi si gettò su di me. Io, Ti ordino di metterti in piedi e dirmi chi sei. Lui, l'impuro. Io, ti voglio aiutare, dimmi di che cosa hai bisogno. Lui, che tu ti sacrifichi. Hai provato, quante preghiere furono offerte oggi? Lui, sì, fu questo che mi diede la parola. Io, perché sei in questo stato? Lui, non c'è peccato che io non abbia commesso. Io, hai comunque avuto la fede. Lui, fino all'ora della morte io ho disprezzato l'Altissimo. Io, e poi? Lui, venne il riconoscimento, così sono sfuggito all'inferno. Io, voi sante messe? Lui, nessuna partecipazione a ciò cui non ho creduto. Io, è un castigo? Lui, uno dei tanti. Poi uscì di nuovo dalla finestra. Avrei tanto desiderio di poterlo aiutare presto. Effettivamente egli è l'immagine del dolore. Ora ho più ripugnanza che paura. 3 novembre. La scimmia mi ha perseguitata quasi tutto il giorno. Così dovetti rappresentare il doppio personaggio. Scossa nel più profondo e in superficie ridendo e scherzando, è assai faticoso e consuma tante forze. Ma quasi sotto sul punto di non farcela più, viene luci certo senso di felicità, del quale non scrivo più perché temo di essere esaltata. Essa tornò di notte. E così anche il 4, 5 e 6. Niente si poté più tirargli fuori. 7 novembre. La scimmia divenne più difficile, perché sempre sotto gli occhi. Io, che cosa c'è che è successo a me o a te, che fai tanta paura? Lui, tu devi conoscere tutta la mia vita. Io, lascia stare questo, ti voglio aiutare lo stesso. Lui, sai chi sono? Io, sì, un'anima molto povera. Lui, che cosa vedi in me? Io, una infelicità senza nome e un enorme peso traspaiono dai tuoi occhi. Io non voglio sentire che cosa hai fatto. Lui, ma espiare per me? Io, sì. Lui, voglio aiutarti a far questo. Essa mi diede uno schiaffo in viso e disparve. Bene, una cosa del genere non me la riesco a spiegare. Perché, mentre io cerco di aiutarlo, lui mi fa del male. Devo domandarglielo. 8 novembre fu quasi tutto il giorno qui. Io, perché mi hai di nuovo schiaffeggiata? Lui, perché volevo tormentarti. Io, però dal momento che io voglio aiutarti, ciò è misconoscenza da parte tua. Lui. Nel mio stato c'è soltanto cattiveria. Io, ma tu sei pure salvo e allora come fai ad essere ancora cattivo? Lui, è ancora attaccata a me, non lo vedi? Io, non posso vedere altro che sei uno spaventoso animale. Allora essa mi venne vicinissima. Così vidi cose indescrivibili. Il suo corpo era una caverna di migliaia di vermi. Tutto brulicava in lui. Credo proprio di non aver mai visto una cosa così ripugnante. Che io non debba più vedere una cosa simile. Gli dissi, ti prego, vai via, non lo posso più sopportare. Sono i peccati non soddisfatti? Lui, Dio è giusto. I miei peccati gridano al cielo. Nota. I quattro peccati che gridano vendetta al cielo sono l'omicidio volontario, la sodomia, omosessualità, l'oppressione dei poveri e delle vedove e degli orfani, la mancata retribuzione del lavoro agli operai. I catechismi moderni non li conoscono più e non li nominano neppure. Anzi, secondo molti moderni teologi e medici, la sodomia sarebbe una cosa naturale e quindi per niente peccato. Sic. E del resto vediamo che oggi tutti questi peccati sono diventati una moda. E sono all'ordine del giorno. Don dell'Andrea. Io, intendi dire i peccati che gridano vendetta al cielo? Lui, tu lo dici. Io, disgraziato. Ma dimmi, il tuo pentimento all'ultima ora ha avuto la forza di salvarti? Il pentimento e il sacramento. Poi mi si avvicinò ancora di più, posò il suo braccio orrendo su di me. Indescrivibile questa vicinanza, questa cosa orrenda. Io ho soltanto chiuso gli occhi ed ho solo sperato che se ne vada presto. Non ho pregato, non ho offerto, così priva di amore con i più miserabili. Finalmente mi lasciò libera. Io, deve accadere questo. Lui, tu mi rinfreschi. Così gli ho dato davvero una quantità di acqua santa ed essa se ne andò. Quando ciò è passato si ha la sensazione di essere stati redenti. Allora soltanto posso incominciare a lavorare per lei. Io avrò ancora molto da tribulare con questa scimmia. Questo pensiero mi travolge, ho una paura spaventosa, quella quantità di vermi sono un vero orrore per me. Io dico ben sia come Dio vuole, ma è poi vero. Poi penso fra me che questa cosa non avesse più a succedere. 10-26 novembre. Molti tormenti. Non ho potuto più ricavare niente da lui. Ma non ha importanza, e non serve ricordare o descrivere ciò che è passato ormai, e poi io preferisco proprio non pensarci.